Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non alimentiamo la leggenda per cui se noi non attacchiamo questi risparmierebbero l'Europa. Perché sento circolare discorsi di questo genere che sono discorsi sostanzialmente infondati. Nel senso che l'Europa è stata attaccata quando Daesh era molto forte e viene attaccata ora che Daesh è sotto pressione e vede ridursi di molto la propria presenza. Hanno colpito da forti e colpiscono da deboli o addirittura disperati. E così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nessun dorma, dice insomma il ministro degli esteri Gentiloni, poiché avverte in contrasto con alcuni analisti che anche magari avete sentito o letto in questi giorni. Non è vero, dice, che i terroristi, quelli che fanno parte della galassia jihadista, ma anche i killer estemporanei, attaccano solo le nazioni che le attaccano. Insomma, nulla di confortante, quindi tenere alta la vigilanza, questo è il messaggio. E poi la Francia, tra l'altro, si è svegliata ancora purtroppo con un altro attacco terroristico, questa volta in una chiesa, in un luogo di culto cristiano. E poi, tra gli altri temi della giornata e delle puntate di Effetto Notte, prosegue la convention democratica che dovrebbe incoronare Hillary Clinton come candidata democratica ufficiale alla Casa Bianca. E grande successo, ieri è stata la protagonista Michelle Obama a questa convention, stasera invece ci sarà Bill Clinton. Per le notizie italiane si parla di riforma della pubblica amministrazione che farebbe cadere due pilastri per i dipendenti pubblici, il posto fisso e gli scatti automatici. E poi le Olimpiadi di Rio, problematiche fino ai capelli per il rischio terrorismo, il doping, Zika, le strutture ancora in alto mare. Insomma, tantissimi temi di cui parlare, sui quali voi potete fare le vostre riflessioni, scrivere i vostri messaggi, i vostri commenti o sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero per WhatsApp e SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Intanto, come sempre all'inizio, vediamo in complesso che giornata è stata. L'attacco alla chiesa in Francia, i due assalitori che hanno ucciso un prete e ferito gravemente un'altra persona erano francesi, nati a Rouen. Uno era in libertà vigilata. Siamo in guerra, dice il presidente Hollande. Stati Uniti, alla convention democratica che incoronerà Hillary dopo Michelle Obama che incanta la platea, tocca a Bill Clinton. Pubblica amministrazione nel progetto di riforma, spending review e addio a posto fisso e scatti automatici. Dietro front di Vivendi, il gruppo di Bolloré cambia idea, non vuole più comprare Mediaset Premium, Fininvest minaccia un'azione legale. Ennesimo femminicidio, vicino Genova un pensionato di 77 anni strangola la moglie di 76, l'uomo era indagato per maltrattamenti in famiglia. Gli italiani, secondo l'Istat, fumano meno ma sono pigri e obesi, i cattivi stili di vita si imparano in famiglia. Calcio, Gonzalo Higuaín è un giocatore della Juventus, lo ufficializza il sito web della Lega Calcio, depositato un contratto di 4 anni all'argentino, 7 milioni e mezzo a stagione. Partiamo quindi dal nuovo attacco terroristico in Francia. Questa mattina due uomini armati di coltelli, due francesi nati a Rouen, hanno preso in ostaggio 5 persone in una chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray in Normandia, appunto vicino Rouen, nel nord della Francia. Hanno ucciso sgozzandolo il parroco di 86 anni, feriti anche 3 fedeli, di cui uno in modo grave, prima che gli assaltatori poi venissero uccisi dalla polizia. Nella chiesa gli artificieri hanno trovato dell'esplosivo e un'arma finta. Probabilmente uno dei terroristi aveva una finta cintura esplosiva indosso. Per ora è stato identificato uno solo dei due assalitori. Si tratta di un 19enne uscito da 4 mesi dal carcere, indicato con la sigla AK, quindi come a rischio, insomma, affiliato ISIS, probabilmente portava il braccialetto elettronico, ma poi ci collegheremo direttamente con la Francia per avere ulteriori dettagli. Sentiamo intanto quali sono state le reazioni. È una notizia terribile. Il Papa partecipa con la preghiera. Papa Francesco partecipa al dolore e all'orrore per questa violenza assurda. Lo afferma il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, che abbiamo sentito, esprimendo da parte del pontefice la condanna più radicale di ogni forma di odio e la preghiera per le persone colpite. Nelle stesse ore la condanna da parte delle autorità islamiche. Il Gran Mufti d'Egitto, Sheikh Shoki Allam, la suprema autorità giuridica islamica sunnita, esprimendo solidarietà alla Francia e alle vittime, ha dichiarato che l'atto terrorista e criminale che si è consumato in Normandia viola tutti tutti gli insegnamenti dell'Islam. In Europa, mentre la premier britannica Theresa May fa sapere che la Gran Bretagna è al fianco della Francia, la cancelliera tedesca Angela Merkel interrompe le vacanze convocando per giovedì prossimo una conferenza stampa che era prevista per fine agosto. Tra i segnali di solidarietà della comunità internazionale, quello della Casa Bianca. Gli USA condannano nei termini più duri possibili l'orribile attacco terroristico, condividendo con la Francia l'impegno a proteggere la libertà religiosa di tutti i fedeli, la dichiarazione di Ned Price, portavoce del Consiglio americano per la sicurezza nazionale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi dall'Università di Campobasso, dove ha firmato il patto per il Molise, su questo attacco in Francia è intervenuto anche Matteo Renzi. Vorrei che arrivasse forte lo sdegno per ciò che è accaduto, l'abbraccio affettuoso alla comunità di quel paese, a tutti i nostri amici e cugini francesi e la convinzione dall'università che se i terroristi vogliono distruggere la nostra identità e il nostro modo di vivere, da qui, da una università, noi diciamo che non ci arrenderemo a quella cultura di morte che nega la possibilità di credere in dei valori, di affermare un'identità. L'Italia, l'Europa dovrà dimostrare di essere più forte di questa minaccia, non chiudendosi a riccio e impaurendosi, ma tenendo forte il senso profondo della propria identità, che quindi permette un confronto, un dialogo, perché identità. E su questo primo attacco alla Chiesa, secondo due esperti analisti di conflitti internazionali, l'ISIS vuole suscitare una guerra civile. Sono Jean-Pierre Darny, direttore del programma Sicurezza e Difesa dell'Istituto Affari Internazionali, già ospite Effetto Notte, e Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali all'Università di l'Università Luiss. Per loro, esperti appunto di conflitti internazionali, il vero scopo di questi attacchi è di alimentare un conflitto tra musulmani e francesi che potrebbe scattare da una reazione xenofoba della destra da una parte e da una radicalizzazione della minoranza musulmana dall'altra, la più grande in Europa, in Francia. E c'è questo rapporto di Europol che rinnova il suo allarme per centinaia di foreign fighters, potenziali terroristi rientrati in Europa dai campi di combattimento dell'ISIS in Siria e in Iraq, mentre con l'attacco alla chiesa di Rouen in Normandia si allunga la scia di sangue degli attacchi del sedicente califfato, sempre più impegnato ad esportare la sua atroce violenza nel vecchio continente. Dei circa 5.000 jihadisti partiti negli ultimi anni dai paesi dell'Unione Europea per raggiungere lo Stato Islamico, tra 1.500 e 1.800 sono tornati a casa. Molti di loro, dicono, si dice in questo rapporto Europol, non hanno né voglia né capacità di compiere attentati, spiegano i funzionari dell'Agenzia Europea, ma molti altri sono vere e proprie bombe a orologeria. E spostiamoci in Giappone, non è un attentato terroristico, ma insomma è la strage più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale in Giappone. Un ex dipendente ossessionato dal problema dell'handicap ha coltellato e ucciso 19 persone e ne ha ferite almeno altre 45, di cui una in maniera grave in un istituto di persone disabili. Una vera e propria strage, la più grave appunto nel paese del Sollevante dal 1989, che forse era prevedibile e poteva essere evitata. L'attentatore, un 26enne che fino lo scorso febbraio lavorava nel centro di cura malgrado il suo manifesto disprezzo per la disabilità. Stati Uniti adesso alla Convention Democratica che incoronerà Hillary Clinton dopo Michelle Obama, che ha incantato la platea. Questa sera tocca a Bill Clinton. Hillary e Bill sono una coppia inossidabile, con più di 40 anni passati insieme sotto i riflettori, messi alla prova in molte occasioni. Poi ci collegheremo direttamente con Philadelphia, ci faremo raccontare. Torniamo però invece sulle notizie italiane, parliamo di pubblica amministrazione. Spending review è svolta nella pubblica amministrazione. Secondo il decreto del Ministero dell'Economia, i prezzi di riferimento consentiranno un risparmio nella pubblica amministrazione di oltre 1 miliardo di euro. Centralizzare gli acquisti in 34 settori della pubblica amministrazione per rilanciare la spending review. Partono oggi con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale i prezzi per 34 convenzioni Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, ai quali tutti gli uffici si dovranno attenere per l'acquisto di autovetture di pubblica sicurezza, energia elettrica, fotocopiatrici, PC portatili, tablet e beni sanitari. Secondo Roberto Garofali, capo gabinetto del Ministero dell'Economia, il risparmio previsto nella legge di stabilità era di 200 milioni di euro, ma probabilmente sarà molto superiore, potrebbe raggiungere oltre il miliardo di euro. Inoltre, dal 9 agosto parte l'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori, meno fornitori e più centralizzati, per l'acquisto di beni e servizi anche per gli enti locali. La spesa valutata è intorno ai 3 miliardi e si riferisce a guardiani, vigilanza armata, pulizia, manutenzione di impianti e immobili e facility management. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma ci sono anche delle novità, vi dicevo, per i dipendenti pubblici. Secondo la bozza di riforma del governo cadono due pilastri, il posto fisso e gli scatti automatici. Di questo parleremo poi più tardi nel corso di Effetto Notte. Parliamo invece adesso di Roma, consiglieri comunali della capitale su autobus e metro, quindi stop alle auto blu e ai permessi ZTL a spese del comune. Il cambio di marcia della giunta grillina a Roma passa anche da qui, dalla decisione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Capitolina, guidata da Marcello De Vito. Importante riduzione dei costi della politica, scrive il presidente su Facebook, annunciando che in particolare è stata disposta l'eliminazione delle 5 auto blu assegnate all'ufficio di presidenza. È stato anche espresso indirizzo per l'eliminazione di quelle a disposizione dei presidenti dei gruppi. Eliminati anche i permessi ZTL con diritto di sosta, 2.000 euro circa ciascuno per 48 consiglieri, con un risparmio complessivo di oltre 96.000 euro. Le auto blu inutilizzate saranno reimpiegate per finalità sociali. Quanto ai consiglieri, avranno diritto alla tessera per autobus e metropolitana, trasferimenti da comuni mortali con relative eventuali sofferenze dunque. E se su internet si plaude alla novità, il Partito Democratico ne sottolinea l'intento promozionale. Consiglieri comunali non hanno mai avuto l'auto blu, sottolineano i Dem Marco Palumbo e Giulia Tempesta. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso della Salerno-Reggio Calabria. Per la prima volta nella sua storia, da quest'estate l'autostrada A3 sarà percorribile senza deviazioni su quattro corsie per tutti i suoi 443 chilometri. Finora era l'autostrada simbolo di tutte le opere pubbliche incompiute, incubo di automobilisti e camionisti. Adesso ANAS e Governo assicurano che da questa estate, per la prima volta nella sua storia, la Salerno-Reggio Calabria sarà interamente percorribile senza più deviazioni e cantieri. Alla presenza del Premier Renzi oggi è stato inaugurato il nuovo tratto di 20 km tra Laino Borgo e Campotenese in Calabria. Resta ancora da completare una galleria lunga circa 600 metri, ma Renzi assicura che tutto sarà pronto entro il 22 dicembre. La Salerno-Reggio Calabria sarà definitivamente consegnata nell'elenco delle cose fatte. Poi ci continueremo a investire, continueremo a controllare, a manutenere, a fare quello che va fatto, ma finalmente l'Italia che ce la fa dimostra di essere più forte di quelli che sanno soltanto lamentarsi. L'ANAS assicura invece che ora la A3 è pienamente percorribile per tutti i suoi 443 chilometri su tre corsie per senso di marcia nel tratto compreso tra Salerno e Sicignano e su due corsie per senso nel restante tratto fino a Reggio Calabria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fininvest minaccia una causa dopo che Vivendi ha cambiato idea sull'acquisto di Mediaset Premium. I francesi di Vivendi ci ripensano e non vogliono portare avanti l'accordo dell'aprile scorso per rilevare il 100% di Mediaset Premium. Il gruppo di Bolloré punta ora solo a una quota del 20% alla luce di differenze significative nell'analisi dei risultati della Pay TV, come spiegato in una nota. E quella che sembrava una forte intesa rischia di trasformarsi in una battaglia legale da oltre 1 miliardo di euro. Per i francesi ci sarebbero difficoltà a portare nel medio termine a break-even la TV a pagamento. Per Mediaset invece, anche se i conti 2015 sono stati in rosso, come saranno quelli del 2016, il break-even resta programmato per il 2017. Vivendi vuole trovare comunque un accordo, confermando lo scambio incrociato del 3,5% del capitale e annunciando l'intenzione di arrivare a detenere in 3 anni circa il 15% di Mediaset, senza puntarne al controllo, attraverso un prestito obbligazionario convertibile, quando l'intesa iniziale prevedeva che i francesi potessero salire solo fino al 5%. Mediaset, che ha chiuso la seduta di borsa in calo del 7%, è meno conciliante, di fronte a quella che definisce una palese contraddizione con gli impegni assunti. Ancora più duro l'azionista Fininvest, che accusa Vivendi di scorrettezza e di volere una posizione di rilievo in modo surrettizio. Flavia Carletti da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca nera. Pensionato, questo è un ennesimo femminicidio, naturalmente per mantenere sempre alta la media. Un pensionato ha strangolato la moglie per gelosia, lui 77 anni, lei 76, un sentimento distorto che ha portato Giacomo Sfragaro, pensionato, ex consulente legale di una ditta del porto, a strangolare la moglie Giuseppina Minatel di 76 anni, ex maestra elementare, avvenuto nella notte nella loro casa di Pegli vicino Genova dopo l'ennesimo litigio. Poche ore prima la donna, pensate, aveva chiamato i carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato ed avevano lasciato l'abitazione. Dopo poche ore il dramma, come succede molto spesso. L'uomo nel 2012 era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ed è stato arrestato il secondo presunto killer coinvolto nell'omicidio di Fossanova San Marco nel Ferrarese. Questa mattina il complice si era presentato spontaneamente ai carabinieri. Si è presentato davanti ai carabinieri con il suo avvocato Simone Bertocchi, il 36enne sospettato dell'omicidio di Roberto Tosi Savonuzzi, 73 anni, e del ferimento della compagna Raffaella Pareschi, stessa età, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna. Ha confessato il delitto e indicato dove trovare la pistola usata domenica mattina nel casolare di Fossanova San Marco, alle porte di Ferrara, dove abitava l'anziana coppia e dove si era recato in bicicletta insieme al complice, un pregiudicato di 36 anni, arrestato poche ore dopo la confessione del killer. Bertocchi è il fidanzato di Sabrina Chiccoli, nipote di Vittorio Chiccoli, 82 anni, indicato come il padrone di casa dei Tosi. Anche se il casolare dove i tre anziani vivevano come coinquilini risulta intestato alla donna. All'origine del delitto non ci sarebbe, come ipotizzato, un litigio per una perdita d'acqua da un terrazzo. A quanto pare la vittima era intenzionato a presentare un esposto alle forze dell'ordine perché sospettava che qualcuno rubasse la pensione a Chiccoli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso cerchiamo un po' di alleggerire, anche se anche qui c'è della pesantezza in realtà fisica. Sono i dati dell'Istat sugli italiani: cala il fumo soprattutto tra le donne, si riduce però l'attività fisica e la pratica sportiva, e quindi invece proprio le donne sono le più pigre. Di conseguenza aumenta il principale fenomeno associato alla sedentarietà, cioè l'eccessivo aumento di peso. Il combinato disposto di questi due fattori rappresentano un rischio per la salute per oltre metà degli adulti, il 52%. Sono i dati di maggior rilievo di questa ricerca dell'Istat su come cambiano i fattori di rischio per la salute degli italiani, che sono fumano meno ma sono più pigri e anche più grassi. Uno studio che mette in risalto tra l'altro il ruolo della famiglia nella promozione di uno stile di vita salutare per le nuove e le giovani generazioni. Tra l'altro c'è anche questa, invece, il più grande studio mai compiuto sull'altezza in Europa, pubblicato sulla rivista eLife, secondo la quale gli olandesi sono i più alti nel mondo, gli italiani sono solo trentesimi, anche se negli ultimi 100 anni sono cresciuti più di 10 centimetri, questo per le condizioni socio-economiche e ambientali, per gli stili di vita in particolare. C'è anche una notizia che può riguardare in particolare chi è appassionato di Madonna o chi vive in Puglia. La star Madonna è in Puglia, ha pubblicato un'immagine su Instagram che la ritrae a Savelletri, appunto in Puglia, dove farà le sue vacanze in un resort. Per chiudere il calcio, Gonzalo Higuaín è un giocatore della Juventus, lo ufficializza il sito web della Lega Calcio. Il Pipita, come viene chiamato, vestirà il bianconero per i prossimi 4 anni, percependo 7,5 milioni. In questo modo diventa il paperone praticamente d'Italia come calciatore. Direi che su questa somma molto consistente possiamo brevemente lasciarci per aggiornare chi sta viaggiando, per i vostri messaggi, le vostre riflessioni. 349-238-6666, che è la pagina per gli sms e WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, tra i vostri messaggi c'è Emanuele che scrive: gli assassini di Rouen erano francesi, è possibile sapere di quale origine etnica o chiederlo? È indice di razzismo? Chiede Emanuele. Senza nessun pregiudizio, poi capiremo più tardi. Sono nati a Rouen, ma vediamo se hanno altre origini. E poi invece Alfonso dice: consideri la mia opzione, espellere ad ogni attentato non 1000 islamici ma 2000 famiglie islamiche. E Alfonso, poi non mi sembra, diciamo, la politica giusta per non creare poi frizioni, se non conflitti. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Adesso cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti dopo il riassunto della giornata, dei fatti principali. Tra poco ve li ricordo per titoli, se non avete acceso puntualmente alle 21. Intanto, dicevo, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per esempio, questo ascoltatore, Andrea da Cremona, a proposito di quello che ha detto Olanda, ma anche Renzi, che non ci dobbiamo fare spaventare, non dobbiamo permettere di cambiare le nostre vite, i nostri valori. Dice Andrea, l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. E poi Michele scrive, vera un'analisi che condivido pienamente, quella dei due esperti di conflitti internazionali che parlano di ISIS come con l'obiettivo di creare una guerra civile, soprattutto in Francia. Dice, un'analisi che condivido, dobbiamo stare attenti a non cadere nel loro tranello. Purtroppo già mi vedo una vittoria di Le Pen, ma la tempora currunt, dice, conclude in latino Michele. Vi ricordo le notizie più importanti e poi cominciamo con il primo tema. Orrore a Rouen in Francia, sgozzato il sacerdote mentre celebra messa, gli attentatori inneggiano all'ISIS, erano in libertà vigilata. E poi notte della nomination democratica, Bill Clinton incorona Hillary stasera, è stato domato il dissenso dei sostenitori di Bernie Sanders e è stata Michelle Obama che ha incantato la platea. Salerno-Reggio Calabria tutta percorribile, inaugurato il viadotto, Italia, Renzi e Del Rio aprono l'ultimo tratto e la fine dei lavori sarà entro l'anno. E poi dietro fronte di Vivendi, non vogliamo il controllo di Premium Mediaset, Fininvest attacca, dice non onorate il contratto, il titolo è penalizzato. E poi Madia, la ministra Madia della pubblica amministrazione, dice stop agli incentivi a pioggia, sarà premiato il merito, e parte la spending review. E poi si parla anche della fine nei contratti per i pubblici dipendenti del posto fisso e degli scatti automatici. E poi il ritratto dell'Istat rispetto agli italiani, pigri e obesi, cattivi stili di vita si imparano in famiglia. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Ce que veulent faire. Questo è Hollande che parla, il presidente francese, dice Daesh, come si dice anche in francese, in lingua araba, ISIS ci ha dichiarato guerra, noi dobbiamo combattere, dobbiamo condurre questa guerra con tutti i mezzi nel rispetto del diritto, siamo una democrazia. Perché? Perché davvero la Francia ormai è completamente accerchiata dalla paura, quantomeno, di attacchi terroristici che poi si concretizzano, l'ultimo appunto questa mattina in una chiesa cattolica, l'attacco terroristico a Rouen in Normandia. In questa chiesa è stato sgozzato durante la messa della mattina un sacerdote ultraottantenne, un'altra persona è stata ferita molto gravemente. Due uomini sono entrati nella chiesa di Saint-Étienne de Rouvrain, Normandia, un comune di 29.000 abitanti nell'area metropolitana appunto di Rouen, hanno preso in ostaggio 5 persone che si trovavano all'interno, hanno ucciso il sacerdote e ferito, vi dicevo, gravemente almeno un'altra persona. Uscendo poi due si sono trovati faccia a faccia con le forze speciali francesi che li hanno uccisi. L'ISIS ha detto che l'attacco è stato realizzato dai suoi soldati che hanno risposto all'appello del califfato. Non c'è conferma ufficiale, ma pare che uno dei due uomini avesse un braccialetto elettronico perché era stato scarcerato di recente. Ma ne parliamo con Chiara Rancati dell'ANSA da Parigi. Buonasera Chiara. Buonasera a voi. È vero quindi che uno dei due, un 19enne, aveva un braccialetto elettronico, ti risulta dalle ultime informazioni che hai? Allora, secondo quanto riferiscono i media francesi ma anche quelli svizzeri, il ragazzo era effettivamente stato intercettato in Turchia nella primavera del 2015 con dei documenti probabilmente falsi o in qualche modo non corrispondenti, quindi era stato fermato all'arrivo dell'aeroporto e rispedito alla sua città di partenza, che era Ginevra. La polizia svizzera l'aveva fermato perché era chiaro che la sua intenzione fosse di recarsi in Siria, di unirsi alle milizie jihadiste, l'aveva trattenuto a Ginevra per qualche giorno e poi estradato in Francia, dove era stato incriminato per associazione per delinquere con fini di terrorismo, posto prima in detenzione preventiva ma poi appunto, come dicevi, messo in libertà con il braccialetto elettronico in attesa di processo. Chiara, ma erano nati a Rouen, ma erano anche di genitori francesi oppure no? Da quello che si diceva nel quartiere, io sono stata oggi davanti al municipio, pare che fossero proprio ragazzi tranquilli che stavano in città, che erano parte di questa comunità che oggi più che mai vuole farsi vedere come solida, come unita. Non è un caso che alcuni loro coetanei abbiano voluto farsi vedere dai giornalisti, abbiano voluto dire sono degli imbecilli, noi non c'entriamo niente con questa cosa. la cittadina, che è una cittadina popolare nella zona industriale che c'è intorno a Rouen, quindi una cittadina che si può immaginare di operai, non un'area particolarmente ricca in cui le origini sono diverse, le persone sono molto diverse fra loro, c'è questa volontà di dire noi non ci faremo dividere. Chiara, senti, sembra che sia stato trovato dell'esplosivo nella chiesa, c'era forse anche un'arma finta dalle notizie che sono arrivate. C'era una pistola non funzionante che uno dei due assalitori aveva con sé e non c'era in realtà dell'esplosivo, ma c'era un pacco sospetto che era stato montato in modo da sembrare che ci fosse dell'esplosivo. Quindi appunto sul posto sono arrivati gli artificieri, hanno fatto tutte le verifiche del caso e hanno poi determinato che in realtà del reale esplosivo non c'era. Però c'era la volontà di dare questa impressione di avere anche questo tipo di arma. Ma poi in realtà l'unica arma veramente funzionante che avevano erano per l'appunto i coltelli con cui sono accaniti contro il prete e un altro dei fedeli. Tra l'altro un fatto terribile che è stato raccontato da uno dei testimoni a una TV francese, che è Suor Danielle, che è riuscita a scappare, a dare subito l'allarme. Sentiamola, sentiamo un passaggio. Savez, dans l'église ce matin, tout le monde criait, mais arrêtez, vous rendez pas compte ce que vous faites, enfin, arrêtez, arrêtez, et puis... Dice, eravamo in chiesa, tutti urlavamo fermatevi, fermatevi, arrêtez, arrêtez, dice questa suora. Ho reagito nel momento in cui hanno attaccato Jacques Hamel, che è il parroco che è stato ucciso dai due assalitori, da due soldati dell'ISIS. Lo hanno fatto inginocchiare, dice, lui si voleva difendere, continua la suora. Poi due hanno recitato una sorta di sermone in arabo vicino all'altare, hanno registrato tutto, è stato orribile, quindi si sono anche filmati, no Chiara? Sì, sì, il dettaglio è stato reso noto da diverse fonti vicine all'inchiesta prima, poi confermato da questa testimonianza. I due si sono ripresi, hanno messo in scena questa sorta di rituale macabro per accentuare forse la loro vicinanza a questo Islam radicale, di cui pare alcune persone nel quartiere fossero consapevoli. Si era iniziato a parlare di loro, la storia di questo tentativo di viaggio in Siria, almeno di uno dei due, di quello la cui identità è stata accertata, era una storia che girava tra i giovani del quartiere, quindi c'è rifiuto per questo gesto, ma non c'è troppa sorpresa fra chi l'aveva incrociato appunto in moschea o in paese. Pare infatti che anche un suo amico avesse detto, non mi sorprende perché già tempo fa aveva detto che voleva attaccare una chiesa, insomma. Quindi per il momento comunque l'inchiesta è a questo punto, uno è stato identificato e sarebbe questo di cui parlavamo, e poi bisogna capire chi era l'altro invece, Chiara. Esatto, ancora l'identificazione formale del secondo assalitore non c'è, si sta aspettando una conferenza stampa del procuratore di Parigi, François Molin, che è il responsabile della procura antiterrorismo, quella che si è occupata di tutte le vicende da Charlie Hebdo agli attentati di Parigi a quello di Nizza, che era prevista per le 21 ma sta un po' tardando. Da lì forse potrebbero arrivare nuovi elementi, ma al momento quello che sappiamo è questo. Grazie Chiara Rancati dell'ANSA, ciao e buon lavoro. Grazie Chiara. A voi. Ciao. Europa 24 notte. E la questione che si riapre ogni volta dopo ogni attentato è: ci vorrebbe un'unica intelligence europea, obiettivo cioè far circolare le informazioni tra i vari paesi, anche perché diverse indagini sugli attentati in Europa, a cominciare da quelli di Parigi e di Bruxelles, hanno confermato l'esistenza di una rete internazionale, e quindi riuscire ad avere il prima possibile dati e segnalazioni sui terroristi talvolta può fare davvero la differenza anche per sventare degli attentati. Ecco perché un'intelligence unica europea e un procuratore europeo aiuterebbero l'Italia e tutti i paesi nella lotta a un terrorismo globale. Terrorismo internazionale ma risposta locale. Se il califfato dichiara guerra a tutto l'Occidente e attacca ora in Francia, ora in Belgio, ora in Germania, ora negli Stati Uniti, la risposta non è unitaria allo stesso modo, anzi, paese che vai, leggi che trovi. Così, da un confine all'altro, anche all'interno dell'Unione Europea, cambiano gli strumenti d'indagine, come ad esempio l'uso delle intercettazioni, e ancora non c'è un effettivo coordinamento che faccia cioè davvero girare le informazioni. Così, dopo ogni attentato, si ritorna a discutere di un'intelligence unica europea come di un procuratore europeo, ma molti paesi, ricorda il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo Franco Roberti, non hanno la stessa cultura del coordinamento italiana. Vi è necessità di una maggiore completezza e circolazione delle informazioni, vi è necessità di uno scambio informativo costante fra gli organi di intelligence e gli organi di polizia europei. Diciamo che se tutto ciò si realizza e non è impossibile realizzarlo anche in tempi ragionevolmente brevi, è una cosa estremamente importante. Ecco, nel concreto, dal punto di vista investigativo, per voi che cosa rappresenterebbe l'introduzione e l'esistenza di un'unica intelligence europea? Guardi, la lotta al terrorismo si gioca essenzialmente sulla prevenzione. Più, diciamo, si hanno informazioni e più queste informazioni circolano in modo tempestivo, più è facile prevenire. Eurojust è un organo di coordinamento giudiziario e fa bene il suo compito. L'Italia sta dando un grande contributo proprio perché noi italiani abbiamo la cultura del coordinamento investigativo e giudiziario, forse in misura maggiore di altri paesi. Ora sarebbe importante creare un organismo di intelligence europeo e di polizia giudiziaria che già c'è peraltro. Si chiama Europol, va fatto funzionare nel modo migliore. Poi c'è più sullo sfondo la figura del procuratore europeo che sta avendo nella sua costruzione un percorso piuttosto accidentato perché non c'è accordo sul disegno di procuratore europeo, soprattutto sotto il profilo ordinamentale. Per evitare anche in questo caso il nostro paese, con il Ministro della Giustizia in particolare, si sta battendo per arrivare alla costruzione di un procuratore europeo sul modello del pubblico ministero italiano, quindi un magistrato autonomo e indipendente dal potere politico che possa esercitare l'azione penale partendo dai reati che ledono, come dice il Trattato di Lisbona, gli interessi finanziari dei paesi dell'Unione fino ai reati più gravi di criminalità organizzata e di terrorismo. Nessuno può fare da solo niente, mentre se si fa lavoro di squadra e lavoro coordinato si può ottenere il risultato in termini di prevenzione e se necessario anche di repressione. Chi sono i paesi che maggiormente sono più gelosi, diciamo così? No, guardi, è un po'... Bisogna fondare la cultura del coordinamento e della condivisione delle informazioni. Forse noi ce l'abbiamo anche alla luce della nostra tragica storia, certamente, diciamo. Certamente, ma soprattutto per questo. Nasce dalle indagini contro la mafia. Che cos'è? Gelosia delle proprie informazioni o un modo diverso anche di intendere l'azione preventiva? Si potrebbe fare molto di più sul piano della condivisione delle informazioni. Un organismo europeo di intelligence o di polizia giudiziaria potrebbe favorire questo processo culturale. Chissà se ora anche gli ultimi attentati faranno accelerare questi processi di circolazione delle informazioni, visto che tutti assicurano che la lotta al terrore è innanzitutto prevenzione e conoscenza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Prima di una pausa brevissima, poi ci ritroviamo tra poco, volevo leggere fra i vari messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, quello di Silvia che dice: quanti morti dovremo ancora piangere per mano di questi dannati terroristi islamici? Le autorità francesi hanno peccato di leggerezza rilasciando dal carcere uno dei due assassini per permettergli di circolare col braccialetto. Questo tipo non stava mica in galera perché aveva rubato una bicicletta, ci vuole severità con questa gente, dice Silvia. Poi invece per quanto riguarda l'Italia e l'ultimo femminicidio di cui vi davo notizia, anche qui un uomo che d'abitudine maltrattava la moglie in famiglia e anche prima di ucciderla, poche ore prima, l'aveva di nuovo picchiata, era stato denunciato, erano arrivati i carabinieri, lo avevano calmato e se ne erano poi andati. Luca scrive: le forze dell'ordine dovrebbero cambiare immediatamente la procedura e imporre il fermo per i casi di violenza. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice anche Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte. Per esempio scrive Daniela: grazie alla tua trasmissione, ascoltiamo dall'Inghilterra le ultime notizie dall'Italia. Domani siamo a Dover per traghettare in Francia, mi sai dire com'è la situazione? Al momento mi spiace, non lo so dire, sicuramente caotica, un po' difficile, perché sapete che la Francia sta facendo, dopo tutti questi attentati, dei grossi controlli al confine. fine prima di traghettare da una parte o dall'altra, quindi sicuramente qualche coda e qualche difficoltà ci sarà. Grazie comunque a Daniela di aver scritto dalla Gran Bretagna. Tra poco invece ci trasferiamo negli Stati Uniti per parlare della convention, ma intanto, mentre vi ricordo che i vostri messaggi arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, le vostre riflessioni sui vari temi. Per esempio, dice questo ascoltatore, quello in Francia purtroppo è un preludio all'attacco al Papa annunciato da tempo. Speriamo di no, però è vero che anche oggi c'era su Telegram, ecco, che è un social network particolarmente usato dai jihadisti, questa nuova minaccia all'Italia, prenderemo anche Roma, è un po' che lo dicono. Comunque, come diceva Gentiloni, sicuramente purtroppo nessun paese può ritenersi esente da rischi di terrorismo. Vi ricordo allora, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. L'attacco alla chiesa in Francia, i due assalitori che hanno ucciso un prete e ferito gravemente un'altra persona erano francesi, nati a Rouen, uno era in libertà vigilata. Siamo in guerra, dice Hollande. Stati Uniti e la convention democratica che incoronerà Hillary dopo Michelle Obama, che incanta la platea, tocca a Bill Clinton, tra poco ne parliamo. Pubblica amministrazione nel progetto di riforma, spendi review e addio al posto fisso e scatti automatici. Dietro fronte di Vivendi, il gruppo di Bolloré cambia idea, non vuole più comprare Mediaset Premium. Fininvest minaccia un'azione legale. Ennesimo femminicidio vicino a Genova, un pensionato di 77 anni strangola la moglie di 76, l'uomo era indagato per maltrattamenti in famiglia. Calcio, Gonzalo Higuaín è un giocatore della Juventus. And I am here tonight because in this election there is only one person who I trust with that responsibility. Only one person who I believe is truly qualified to be president of the United States, and that is our friend Hillary Clinton. È un boato. Questa Michelle Obama, che ieri è intervenuta sul palco della convention democratica che deve incoronare Hillary Clinton come candidata ufficiale democratica per la Casa Bianca, ha avuto un grandissimo successo, come avete sentito. Ha detto la nostra amica Hillary è la più qualificata per essere presidente, una persona in cui credo fortemente. Avete sentito appunto gli applausi, il boato, l'entusiasmo. Ci colleghiamo ancora con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, che è a Filadelfia a seguire la convention. Quindi Marco, ciao. Ieri, buonasera, ciao. Ieri Michelle è stata la grande protagonista, no? E pare che Trump sia l'unica che non abbia criticato sul palco della convention. Non si capisce se per rispetto per il suo discorso oppure per imbarazzo, non è chiaro, insomma. Però sembra che abbia avuto Sì, sicuramente, esatto. La dimostrazione appunto del silenzio di Trump è che il discorso di Michelle è fatto inattaccabile, è stato sicuramente il più efficace, il miglior discorso ascoltato sicuramente alla convention democratica, assieme a quello di Bernie Sanders, anche molto importante ieri sera. L'ex rivale di Michelle, Hillary, no? Esatto, l'ex rivale di Hillary che ha traghettato, diciamo, ha cercato di traghettare i suoi sostenitori comunque al sostegno anche lui della candidata democratica alla Casa Bianca, che verrà, come ricordavi, ufficialmente nominata e incoronata questa notte con la conta ufficiale, formale dei delegati. Ma appunto, come dicevi, Michelle è stata la vera grande protagonista, con un discorso che anche dallo stralcio che hai fatto ascoltare si può intuire che è stato un discorso molto politico e molto personale allo stesso tempo, un discorso che ha avuto forti echi di autenticità e di spontaneità e con cui, diciamo, ha presentato Hillary Clinton come appunto l'unico candidato a cui lei si sente di poter affidare il futuro del paese, il futuro delle nuove generazioni, il futuro del sogno americano. Quindi è stata efficace Michelle Obama. Invece stasera dovrà essere efficace Bill Clinton, che si trova in una situazione particolare, perché adesso è lui, come si chiama, il first mister, come lo vogliamo definire, si invertono i ruoli, no? Gentleman, esatto, un ruolo, diciamo, sicuramente inedito. Una coppia di ferro, 40 anni insieme sotto i riflettori, anche con qualche scandalo, no? Levinsky, esatto, eccetera, però hanno resistito insieme. Esatto, una coppia che rimane, diciamo, una grande dinastia, una grande forza nel Partito Democratico, e oggi Bill Clinton si troverà in questo ruolo insolito di dover presentare con grande efficacia, di dover promuovere con grande efficacia la sua moglie Hillary come, però, come presidente, come prossimo presidente degli Stati Uniti, e allo stesso tempo però non farle ombra, cioè il discorso deve essere tutto puntato a rafforzare la credibilità di Hillary, non la propria. Però sicuramente Bill Clinton ha sicuramente le carte in regola per raccogliere questa sfida. Ricordiamo che uno dei, considerato uno dei grandi così, oratori, grandi leader carismatici, uno dei presidenti più amati, no? Insieme a Kennedy, uno dei presidenti più amati, comunque con un elevato tasso di popolarità e con una grande abilità proprio di mobilitare sia la base sia di allargare il consenso del Partito Democratico ai più diversi ceti sociali. Ecco, quindi questo sarà un altro banco di prova proprio di queste grandi, ormai quasi leggendarie abilità così, carisma di Clinton. Allora, buona convention a Marco Valsani e anche i coniugi Clinton. Ciao Marco, a domani. Grazie, a presto. Ciao Marco. Adesso invece andiamo su questioni proprio più italiane, con la novità nella pubblica amministrazione per i dipendenti pubblici. Cadono, secondo questa bozza del governo, questo progetto, due pilastri nel contratto degli statali: posto fisso e scatti automatici. Abbiamo parlato prima nel riassunto della giornata anche della Spending Review, però a Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. Vorrei invece chiedere proprio di questo aspetto, è ancora tutto così in fieri, probabilmente questa cosa entrerà in vigore, insomma ci vorrà del tempo ancora. Guarda, partiamo da una cosa che è successa oggi, che ci fa un po' capire quello che accadrà nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi. Oggi è stato avviato il confronto tra i sindacati e l'ARAN, che è l'agenzia tecnica che rappresenta, diciamo, lo Stato, la pubblica amministrazione in sede di gestione dei rapporti di lavoro, quindi anche per il rinnovo contrattuale, e da questo tavolo di controllo, di confronto, scusa, verranno le prime indicazioni sia sul rinnovo dei contratti di lavoro. Ricordo che i contratti di lavoro del pubblico impiego non vengono rinnovati da 7 anni, cioè da quando è iniziata, diciamo, questa lunga crisi. Contemporaneamente questo confronto servirà a definire i contenuti, servirà a mettere a punto, insomma, i contenuti del nuovo testo unico del pubblico impiego, che contiene tra l'altro le due norme che citavi tu, cioè il posto fisso non esiste più e non ci saranno più gli scatti automatici. Però devo dire che queste due cose non sono in realtà delle novità, ma già esistono, sono già state introdotte, la prima nel 2014, il posto fisso che non esiste più, e gli scatti automatici sono stati aboliti addirittura nel 2010. In ogni caso è da 7 anni che gli scatti non se ne fanno, proprio perché la contrattazione è bloccata. Quindi, diciamo, si è aperta una lunga fase che porterà a una riforma effettivamente importante del pubblico impiego, che porterà all'arrivo di un nuovo testo unico, quindi, diciamo, un testo normativo che raccoglierà e rimetterà un pochino a posto norme che già esistono, quindi che non sono novità in assoluto, e diciamo, in questo percorso si farà per esempio molta attenzione a tutte quelle questioni delle quali noi parliamo spesso, per esempio su come vengono concessi i premi al personale. Adesso sappiamo che molto spesso, ed è motivo sempre di polemica, i premi al personale vengono dati a pioggia, cioè un pochino a tutti quanti. Invece in futuro, grazie al rinnovo contrattuale e al testo unico che andranno entro gennaio, febbraio del prossimo anno ad approvare, anche i premi al personale verranno concessi seguendo dei criteri, diciamo, più meritocratici rispetto a quelli che attualmente non sono affatto meritocratici. Però Chicco Padula, sì, questa cosa invece della licenziabilità dei dipendenti dopo 2 anni se in eccedenza rispetto ai compiti dell'ufficio è una novità questa, no? Guarda, lo prevede il decreto legge 90 del 2014, prevede che se una pubblica amministrazione non ha più la necessità di un certo posto di lavoro, può mettere il dipendente in mobilità per 2 anni e se in 2 anni questo dipendente non può essere ricollocato in nessun'altra amministrazione, può essere licenziato. Ora, essendo la norma del 2014, diciamo, questo primo iter non si è ancora concluso, quindi noi non sappiamo dire oggi se questa idea che uno statale può essere licenziato perché il suo posto viene a mancare funziona o non funziona, però diciamo che già oggi è prevista. Per esempio, i dipendenti delle province, e le province sappiamo che stanno per essere soppresse, diciamo così, però i dipendenti vengono trasferiti ad altre amministrazioni. Tutti lo vediamo in queste settimane, tutti riescono ad essere ricollocati, ma se in teoria non fossero ricollocati, quel dipendente dopo 2 anni di mobilità potrebbe essere licenziato. E grazie. Chicco, l'ultima cosa, un ascoltatore scrive: ma quali scatti automatici, per favore informatevi? Appunto, gli scatti automatici non ci sono, esattamente, ha ragione l'ascoltatore, gli scatti automatici sono stati soppressi. Ecco, quindi, diciamo, in questi titoli che girano, bots, cose, agenzie, eccetera, gli scatti automatici quindi sono una notizia falsa e tendenziosa e nonché superata. Grazie Salvatore Chicco. Grazie Padula del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, ciao, ciao. E abbiamo la viabilità, certo. Andiamo. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Prima di ricordarvi le notizie principali, di passare al prossimo argomento, ancora le vostre riflessioni, i vostri messaggi al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp, oppure comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. C'è questo messaggio di Sergio che dice: ma un'intelligence comune avrebbe fermato questo pazzo francese? Questa gente va tenuta in galera appena manifesta anche solo con la parola la sua radicalizzazione, imam compreso, che ne era al corrente. Beh, certamente un'intelligence unica serve, un'intelligence unica europea, un dibattito che c'è da tempo, l'abbiamo appena sentito prima nello spazio europeo, quindi è assolutamente essenziale, almeno per cercare di prevenire i terroristi che fanno parte di reti organizzate con degli obiettivi ben precisi che si possono intercettare, si può indagare. Chiaramente degli psicopatici solitari credo che nessuno su questi possa fare gran prevenzione. E poi un altro messaggio è questo di Paolo D'Alecco, che dice: spero non succeda nulla alla GMG, parliamo per sigle, lo so che è la giornata mondiale della gioventù, però a Cracovia questo fine settimana ci saranno milioni di giovani oltre al Papa. Domani ne parleremo, naturalmente ci auguriamo che sia troppo scontato per possibili attacchi terroristici per intervenire in questo caso. E poi le notizie principali che vi ricordo velocemente, oltre a questa che vedo adesso, una notizia di pochi istanti fa: la Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo 4 dei 5 imputati nel nuovo processo per la strage di Capaci, in cui vennero uccisi il magistrato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, sua moglie, e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, il 23 maggio 1992. Carcere a vita per i mafiosi Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro e Lorenzo Tinnirello. Bene, adesso direi di passare al prossimo argomento, alle notizie principali. Naturalmente ve le ricordo, che sono appunto il nuovo attentato in Francia, Rouen sgozzato il sacerdote mentre celebra la messa, in Normandia gli attentatori inneggiano all'ISIS, erano in libertà vigilata, almeno uno di questi, il 19enne di cui abbiamo parlato. E poi notte della nomination democratica, Bill Clinton in corona Hillary, è stato intanto domato il dissenso tra i fan di Bernie Sanders e poi in delirio la platea per Michelle Obama. Salerno Reggio Calabria percorribile, inaugurato il viadotto Italia, Renzi e Del Rio aprono l'ultimo tratto, la fine dei lavori entro l'anno. Parliamo adesso di Olimpiadi di Rio de Janeiro con Emiliano Guanella dal Brasile, corrispondente della Stampa e della TV svizzera. Buonasera Emiliano. Buonasera Roberto. Possiamo dire che le Olimpiadi di Rio de Janeiro, che partono tra l'altro tra 9 giorni, il 5 agosto, forse ancora prima di iniziare, sono le Olimpiadi più problematiche di sempre, perché non si sono fatte mancare nulla in questa edizione dei giochi. Il travaglio iniziato con la paura del virus Zika, vi ricordate, per cui molti atleti hanno dato forfait, per poi passare al problema del doping che potrebbe costare caro soprattutto la Russia. In aggiunta alleggia l'incubo del terrorismo, la scorsa settimana sono state arrestate una decina di sospetti terroristi, come se non bastasse si aggiungono, Emiliano, problemi organizzativi logistici, no? Nel senso che i palazzetti che dovrebbero accogliere le varie squadre sembra ancora che abbiano i gabinetti otturati, i fili appesi. Già Svezia e Australia si sono ritirate da queste strutture dicendo noi ce ne andiamo da qualche altra parte quando veniamo lì in Brasile. Esatto, Roberta, oggi l'aeroporto internazionale Galeão, Don Jovim di Rio de Janeiro è veramente un crocevia del mondo, perché stanno arrivando le delegazioni in un po' di diversi paesi e ormai è quasi una lotteria, c'è chi arriva e dice vabbè, insomma, non è così grave, rimaniamo. Per esempio il CONI ha contrattato, la delegazione italiana non è ancora arrivata, però il CONI ha contrattato una serie di operai per mettere a posto quello che non va in questi appartamenti. In alcuni casi invece la situazione è veramente fuori controllo. Nel caso dell'Australia hanno fatto un test, appunto, lasciando un test molto semplice, cioè praticamente accendendo la luce in tutte le stanze e facendo aprendo appunto i rubinetti, le docce, e hanno visto che c'erano perdite d'acqua nelle pareti, quindi facendo pensare dei tubi rotti, odore di gas, quindi sono appartamenti anche poco sicuri, se non sono stati anche arrabbiati. Il sindaco di Rio è uscito con una battuta delle sue, un personaggio molto coriaceo, molto spesso oltre i limiti del politically correct, ha detto, sto pensando anche di prendere un canguro per far sentire a loro agio gli australiani. Il capo della delegazione ha detto no, non vogliamo canguri, vogliamo semplicemente dei servizi dove non possiamo finire fulminati, ecco. Questo è un po' il panorama del villaggio olimpico, ma ci sono anche tanti altri problemi a Rio de Janeiro, iniziando dalla rete dei trasporti, perché la rete dei trasporti che servirà per le Olimpiadi la stanno inaugurando adesso praticamente. Il tram leggero inaugurato questo fine settimana, oggi ho avuto dei seri problemi perché non andavano le macchinette per i biglietti. La linea della metropolitana che dovrà portare in parte alla zona dei giochi sarà inaugurata addirittura sabato, quindi diciamo proprio in zona Cesarini. Due giorni prima. Prima dei giochi, insomma, e se si poteva fare tutto all'ultimo momento, si è fatto di più all'ultimissimo momento e ovviamente senza i collaudi necessari. Emiliano, invece per quanto riguarda la sicurezza, ti sembra, le cose che ci hai raccontato, insomma, molto in preparazione, almeno per quanto riguarda la sicurezza e i rischi attentati, quindi vigilare naturalmente che tutto vada per il meglio, sono stati approntati diciamo, i dispositivi? Ci sono 85.000 uomini schierati, Roberta, di cui circa 70.000 a Rio e di altri nelle altre città sedi del calcio. Il torneo del calcio prende anche in considerazione anche Manaus, Salvador, Belo Horizonte e San Paolo. Insomma, quindi circa 70.000 fra esercito, l'esercito pattuglia le strade, la marina pattuglia le spiagge, la marina militare le spiagge di Copacabana e Ipanema, insomma, elementi sicuramente dissuasivi, innanzitutto sul punto di vista della violenza comune, che a Rio de Janeiro è molto, valga la ridondanza, comune, quindi scippi, furti, sparatorie e via dicendo, e poi si spera possono essere anche dissuasivi per eventuali attacchi terroristici. Le autorità brasiliane continuano a ripetere che non esistono cellule dello Stato Islamico in Brasile, i 10 ragazzi, insomma dai 20 ai 30 anni arrestati settimana scorsa, non erano propriamente una cellula islamica, ma era un gruppo, tra l'altro attivo su Facebook, quindi anche quasi semi pubbliche le loro dichiarazioni, in cui dicevano che si rallegravano per gli attentati, però se non avessero dei contatti diretti con il missale del califfo, via dicendo, però continuano a dire non è probabile un attentato, non è probabile, ma è possibile, perché in tutto il mondo può essere possibile, certo. Nessuno è a salvo dei lupi solitari. Molti interrogativi ci sono sul punto di vista dell'intelligence, quanto l'intelligence dei paesi particolarmente esposti, quindi Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele, anche Germania, Belgio, comunica con l'intelligence brasiliana e quanto si parlino fra di loro. Già, ne abbiamo parlato proprio poco fa di questa esigenza, insomma, che ci sia della comunicazione, che queste informazioni si condividano, no? E vediamo come sarà capace di farlo il Brasile e i paesi che ospiterà. Intanto grazie Emiliano Guanella dal Brasile, grazie degli aggiornamenti, Emiliano, buon lavoro. Grazie. Noi ci aggiorniamo giusto alle 22.